e del primo concorso festival provinciale del cortometraggio scolastico. Ovviamente l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, quindi vi aspettiamo numerosi. E infatti ci sarà un bellissimo spettacolo, suppongo, anzi ne sono sicura. Sì, faremo un salto nel passato nella televisione, dai, annunciamo solo questo. Ok, allora non dimenticate, domenica 19 maggio alle 18 al Teatro Cicero di Cefalù. Perfetto, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Ci sono i Modà e li sentiamo con un nuovo singolo che si chiama Gioia. Sognare di volare e avere sempre il bisogno di nuove sensazioni per cancellare un Déjà vu su CRM Happy Radio. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. Raise the bar and our cause to the stars. La cosetta nuova di questo periodo è senz'altro questo singolo dei Daft Punk, Get Lucky, che mi piace tantissimo. A te piace? Eh sì, sì, abbiamo ballato un bel po' mentre c'era la musica. Sì, infatti è troppo simpatica questa canzone qua e sicuramente mette allegria a tutti quelli che sono all'ascolto, che in questo momento magari stanno lavorando e tanto allegri non saranno. No, a meno che non facciano un lavoro che piace, come quello nostro. Speriamo proprio di sì, ce l'auguriamo. Salutiamo anche tutte le casalinghe all'ascolto che in questo momento sono indaffaratissime, si sa, sin da quando si alzano, sin da quando mettono piede a terra, soprattutto quando ci sono bambini a casa, ai ai ai che lavoro che c'è da fare per le casalinghe. E speriamo che non siate casalinghe frustrate. Speriamo di no. Forse non avete neanche il tempo di esserlo per tutto quello che avete da fare, ce lo auguriamo veramente tanto. Però in Cina apre un negozio, il primo negozio per donne frustrate. In Cina ne inventano di tutti i colori. Di tutti i colori. E hanno inventato anche questo. Ebbene sì, Mary, dovete sapere che spaccare gli oggetti per sfogare le proprie frustrazioni è abbastanza comune tra le persone, come ben sappiamo. Solitamente però questo istinto violento provoca anche dei danni a oggetti utili e spesso anche costosi. Ne so qualcosa. Però vediamo che in Cina appunto recentemente un centro commerciale cinese, sì, ha aperto un particolare negozio dove ogni donna che è frustrata potrà finalmente sfogare la propria rabbia sugli oggetti senza doversi preoccupare di rompere qualcosa. Hai capito? Questo è interessante. Dovrei andare in uno di questi negozi, se mai ne aprissero qualcuno anche qua, nelle nostre vicinanze. Magari. Per adesso c'è soltanto questo, forse. Sa di sì. Dobbiamo andare in Cina per sfogarci, allora. Sono loro sempre quelli che fanno da apripista per questo. Ma come funziona? Qual è il meccanismo? Allora, di il meccanismo cosa? In pratica cos'è? Il negozio in pratica che cosa fa? Permette a tutte le donne che vogliono usufruirne di rompere ogni cosa che capiti sotto tiro utilizzando una mazza da baseball che gli viene fornita. Fantastico, ma straordinario, mandiamoci. Ma la questione è che viene effettuato solo per un minuto, quindi bisogna sfogare tutta la forza, la che rabbia, è la rabbia, esatto, in quel minuto, in quel momento, sì, in quel minuto che si ha di propria disposizione. Gli interni poi del negozio, ovviamente, per evitare determinate rotture di oggetti, sono divise in varie zone che poi riproducono le stanze di una casa, come ad esempio che può essere il bagno, la stanza da letto. E prossimamente verrà effettuata anche la cucina, quindi con, magari con i piatti e con i bicchieri pronti per essere per essere rotti. Tutto studiato ad hoc praticamente. Vediamo che il Wang Jingzhu, che è il business manager che ha realizzato il progetto, dichiara di aver voluto realizzare questo spazio per permettere appunto alle donne di venire e sentirsi come a casa propria. Solo senza limitazioni e senza doversi preoccupare appunto di quello che andavano a rompere. E quindi questo già è quanto dire, diciamo. È quanto dire. Lo stesso signor Wang tiene a precisare che tutti gli oggetti presenti nel suo negozio sono veri, solitamente utensili di seconda mano oppure già rotti. Inoltre, per chi lo volesse, c'è anche l'opportunità di strappare fogli di carta e quindi anche qui lanciare i piatti che dicevamo. Ma tu ti immagini una cosa del genere? Ma sicuramente potrebbe tornare utile questo negozio anche qua, dalle nostre parti, ne sono sicura. Ma molto, perché spesso si perde la pazienza, non solo sono le casalinghe a perdere la pazienza. Un po' tutti. Infatti, quindi potrebbe servire anche ad altre persone che vogliono sfogare la propria rabbia e per non recare danni a oggetti o anche a persone, converrebbe proprio entrare in uno di questi habitat proprio per sfogare la propria rabbia, la propria ira. Dunque, per invogliare le clienti ad entrare, questo signor cinese che si chiama Wang, sì. Cosa afferma, cosa ha fatto praticamente per invogliarli? Cosa fai? Per invogliarli ha detto che per ogni acquisto che una signora fa di almeno 5 euro potrà sfogarsi senza pagare. Addirittura, quindi compra qualcosa. Sfogo gratuito. Tra le clienti più frequenti ci sono sicuramente le studentesse universitarie e le giovani donne in carriera, quelle frustrate per problemi lavorativi o per problemi finanziari. E all'ingresso del negozio c'è una sola limitazione, che sarebbe quella di un grosso cartello che ricorda vietato l'ingresso agli uomini. Ah, quindi questa è una cosa proprio chiusa proprio solo per donne. È femminista questa cosa, però, scusa. Sì. Va bene, si vede che gli uomini poi si prodigheranno per fare una cosa simile a loro volta. Magari. Davvero divertente, fra virgolette, divertente non tanto per chi in quel momento appunto sta male, è frustrato, fra virgolette, e quindi però poi trova sfogo all'interno di un'abitazione del genere, che non è poco. Un'idea ingegnosa, devo dire. Un'altra idea ce l'abbiamo noi, quella di ascoltare la prossima canzone qui all'interno di Déjà Vu. Siete sempre insieme a noi, che siamo sempre Mary Catalano e Peppe Carrozza. E andiamo avanti con Rihanna o Rihanna? Rihanna. No, ma questo è Vasco Rossi, però. Vasco Rossi, come mai? Tanto mi sembrava una musica un po' ogni più tanto italiana. Si intrufolano cose che non c'entrano niente, va bene uguale. Sentiamoci Vasco Rossi. Come mi è venuta la chiosa? Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te, e non ci credi, sorridi e abbassi gli occhi distante, e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Yeah. vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà pure perché. Vasco Rossi con una canzone per te, era sbucata fuori dal nulla perché avevamo preventivato di ascoltare un'altra canzone e invece poi alla fine è spuntata appunto quella di Vasco Rossi. Ma c'è un motivo assolutamente per cui è spuntata quella, ed è proprio il fatto che voi ce l'avete segnalata, e quindi questo spiega tutto. Vasco Rossi con una canzone per te dedicata a chi? A Carla. A Carla, proprio sì. Così. Da un anonimo, perché non si faceva, insomma, non si è firmato. Un'altra bella canzone. Stay in the light. Déjà Vu su CRM Happy Radio. Long are the days when you're turning away from a reason to stroll. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Love it, I leave it. Love it. E siete sempre su CRM di Radio all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano e Pepe Carrozza qui con me. E naturalmente vi intratteremo sino a mezzogiorno come succede sempre ogni martedì e giovedì e parliamo di alcuni appuntamenti che sono davvero molto interessanti per il prossimo fine settimana e ce ne parla direttamente Pepe Carrozza che è diretto interessato della cosa. Sì Mary, grazie. Allora, domenica 19 maggio alle 18 al Teatro Cicero di Cefalù potrete assistere allo spettacolo teatrale Lunedì Riposo con la regia di Clelia Cucco. In scena saranno presenti la stessa Cucco, Stefania Sprandeo, Giuseppe Montaperto e Giuseppe Carrozza. Ma chi è questo qui? Non lo so. Potremmo scoprirlo domenica. Domenica lo scopriremo. Durante la serata si svolgeranno anche le premiazioni del secondo concorso fotografico Energie Rinnovabili e Salvaguardia Ambientale e del primo concorso festival provinciale del cortometraggio scolastico. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Naturalmente certo. Poi se non trovate posti mettetevi pure tranquillamente in piedi perché ne vale la pena di seguire questo spettacolo qua. O anche dietro le quinte con noi se volete. Anche dietro le quinte, importante esserci. Adesso è arrivato il momento di accontentare una segnalazione arrivata direttamente al nostro sito internet che è il www.crmpiredi.it. È una canzone di Max Gazzè.

cosa è successo? Sì, era il metodo di una banda di ladri arrestata nella capitale dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, e sono 6 le persone arrestate e 7 le denunciate, tra loro anche 2 ragazze romane minorenni e fra l'altro anche di buona famiglia, penso un po', facevano la cosa giusto per passare un po' il tempo, incaricate di avvicinare i coetanei su Facebook convincendoli a farsi ricevere a casa in assenza dei genitori. Pensate un po' che cosa succede. E dopo essere state ricevute a casa, una di loro si nascondeva nell'appartamento dopo aver finto di allontanarsi. Poi, con il pretesto di una passeggiata, la seconda ragazza usciva con il proprietario di casa, lasciando l'amica, che dava campo libero ovviamente alla banda per razziare l'appartamento. Ma pensa a te che cosa riescono a fare. Organizzatissimi, certo? Tutti quanti. Organizzatissimi, ci vuole del fegato e un sacco di inventiva, un sacco di inventiva veramente. Chiedere l'amicizia su Facebook e entrare proprio nelle case delle persone anche tramite internet, perché poi in qualche modo su Facebook un po' traspare la personalità o comunque il modo di vivere delle persone, tramite anche le fotografie che uno pubblica si possono vedere le case, i posti, certo, dove si abita, lo stato delle persone, insomma, se sono benestanti oppure no, si possono evincere tante cose su Facebook, e quindi venivano aiutati anche sotto questo punto di vista da questo social network. Altri furti sono stati messi a segno in bar, tabacchi, negozi vari e anche negli uffici del comune di Mentana, dove erano state portate via 1000 carte d'identità in bianco che i carabinieri, nel corso del blitz scattato all'alba, hanno recuperato assieme a migliaia di euro. Quindi attenzione a chi date l'amicizia su Facebook. State molto attenti. Ed è arrivato il momento adesso di sentire la prossima canzone, questa volta Lana Del Rey, sensualissima. Mamma mia, quanto è sensuale. E insieme qui su CRM, insieme a noi, che siamo sempre Mary Catalano e Giuseppe Carrozza. Peppe Carrozza. Sì, mi piace Peppe, sì, meglio, perché è più veloce e ne ho più rapidi. Sentiamo Young and Beautiful, Lana Del Rey. Still love me. questa era Lana Del Rey con Young and Beautiful. Ringraziamo Giorgi che ce l'ha richiesta. E a proposito di questa canzone, Mary, questa canzone, devi sapere, è la colonna sonora di un film che sta uscendo proprio oggi in Italia. Ma si evince subito questa cosa, che fa parte di una colonna sonora, insomma, che è la colonna sonora di un film, perché ha tutte le sonorità proprio tipiche di una vera e propria colonna sonora. Sì. Dicevi? Proprio il film in questione, Il Grande Gatsby, che è uscito appunto oggi e che ha aperto ieri la 60esima edizione del Festival di Cannes, che è la kermesse francese che celebra il più importante cinema d'autore su scala mondiale. Quest'anno a Cannes troviamo come capo giuria, diciamo così, il regista Steven Spielberg. Insieme a lui troviamo anche altri personaggi del cinema, come il regista di film d'azione Ang Lee e l'attrice Nicole Kidman. La madrina invece quest'anno è Audrey Tautou, che magari tutti ricorderemo come l'Amélie del film Il favoloso mondo di Amélie. Tra le star presenti quest'anno al festival ricordiamo anche Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Matt Damon, Benicio del Toro, Sofia Coppola e la giovane Emma Watson, che per i più giovani è la Hermione della saga di Harry Potter. Comunque tutti grandi nomi, insomma, per questo assolutamente film. Abbiamo anche i due italiani, Paolo Sorrentino e Valeria Golino. Questo è importante per molto noi italiani. Importanti, eh. In realtà solo Paolo Sorrentino è in concorso a Cannes, mentre Valeria Golino è fuori concorso, ma viene proiettato un film sulla eutanasia, che è molto importante come argomento. In cui vediamo anche all'interno di questo film della Golino anche Jasmine Trinca, altra attrice italiana. Dicevamo, è stato proiettato ieri il primo film, questo di attesissimo, Il Grande Gatsby, tratto dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald, che è ambientato negli anni 20. Il film è diretto da Baz Luhrmann, che è il regista, per chi è un po' più che segue un po' più la storia cinematografica, è regista anche del film di Moulin Rouge e di Australia, in cui troviamo anche Nicole Kidman, e di Romeo più Juliet, che è quello in cui troviamo Leonardo DiCaprio, che anche ora in questa occasione è ritornato a lavorare con lui. Trova a collaborare insieme a questo artista internazionale. In gara tra gli italiani? In gara tra gli italiani abbiamo appunto Paolo Sorrentino con La Grande Bellezza, che è una commedia grottesca, amara, in cui troveremo anche Tony Servillo e Carlo Verdone. Uh-huh. E poi fuori concorso, come dicevo, abbiamo Miele di Valeria Golino, che è al debutto alla regia nei film. Che in realtà dobbiamo dire è uscito già qualche settimana fa e ha avuto un discreto successo di critica, un po' meno purtroppo per quanto riguarda il pubblico, però sappiamo che il pubblico ama le cose commerciali. Infatti, e quindi, per cui avrà sicuramente il suo riscontro di successo comunque. Bene, detto questo, continuiamo con il nostro appuntamento musicale. Sono già le 11:13, siete sempre all'interno di Deja Vu, lo sarete sino a mezzogiorno insieme a noi, che siamo sempre Mary Catalano e Peppe Carrozza, e anche questa volta insieme al singolo di Rihanna che sentiamo. Questa volta c'è, questa volta è arrivato e non poteva mancare, visto che l'avevamo anche preannunciato. Il singolo è Stay. Buon ascolto. Estate in ascolto. I want you to stay.

Mi piacerebbe sapere, ma come fa uno a farsi venire in mente di fare una canzone così? No, è proprio simpatica, dai. Sì, dai, coinvolgente. Sì, infatti, se stiamo tanto su internet, ci piace anche andare su Google Art. Sì. E grazie a Google Art riusciamo a scoprire delle cose straordinarie, delle cose fantastiche, come ad esempio l'Isola dell'Amore, che ha proprio la forma di cuore. Eh sì, è stata proprio scoperta questa isola, Mary. Proprio così, un'isola a forma di cuore, quindi nominata l'Isola dell'Amore. Dell'amore. Quest'isola si chiama Galešnjak. Ed è un'isola appunto a forma di cuore, situata in prossimità della costa della Croazia, quindi ce l'abbiamo qua davanti. Esatto. Quasi. E l'incredibile scoperta è stata fatta per caso da Vlado Iuriesco, titolare di un'agenzia di viaggi e proprietario dell'isola. Addirittura è proprietario. Bisognerebbe conoscerlo questo. Che così, digitando il nome dell'isola su Google Earth, ha subito notato la sagoma inconfondibile di un cuore. E sono 108.000 metri quadrati che non avevano mai destato alcun interesse fino a quando l'ignaro proprietario è stato tempestato da centinaia di richieste di soggiorno da parte di persone che, avendolo visto su Google Earth, desideravano trascorrere qualche giorno in un luogo tranquillo. Soprattutto se sono innamorati, se queste persone erano in coppia, un po'. Ancora meglio, era proprio fatta apposta per gli innamorati dunque. E dovete sapere che le richieste per visitare poi l'isola arrivavano quindi da tutto il mondo, e quindi occorre prenotare con un largo anticipo per poter entrare in questa isola. Soprattutto si tratta appunto, come stavamo dicendo, di coppie per brevi visite via nave, pranzi e cene romantiche, matrimonio con l'assistenza del personale delle agenzie. È un po' come quando prenoti un ristorante appunto per queste serate romantiche. Eh sì. In coppia. Qua invece te ne vai in un'isola. In un'isola direttamente. Tutta tua, tutta per te e la tua compagna, il tuo compagno, insomma. Il compagno in questione. Ma le sorprese, Mary, non sono ancora finite, perché infatti per chi cerca qualche emozione in più si può prenotare anche un volo con il paracadute ascensionale, chiamato anche parasailing. Parasailing. Una propria scarica di emozioni, dunque, questo direi. Eh sì, un volo che vi porterà in cielo e dove sentite nient'altro che il vento della corsa, ammirando dall'alto lo splendore di questa meravigliosa isola. Bellissima forma di cuore. E se si vuole, è previsto anche un lancio, come dicevamo prima, col paracadute direttamente sull'isola, anche in tandem addirittura. ovvero lancio assistito da un istruttore per chi non ha esperienze. E il tutto corredato con foto e video e i vostri ricordi, servizio previsto anche per le altre offerte, poi pubblicare tutto quanto su Facebook, come succede oramai, no? Oramai è di moda questa cosa qua. L'isola è stata ribattezzata, come dicevamo prima, l'Isola degli Innamorati. Improvvisamente è diventata un pozzo di petrolio per questo proprietario, che si ritrova adesso tutti questi turisti che ci vanno e pagano fior fior di soldini appunto pur di passare un po' di tempo là. Bene, che dire, magari cercheremo, vedremo un po' se la cosa è fattibile e ci faremo una capatina, chi lo sa, dai, qualche volta. Pensiamoci. Va bene, nel frattempo noi sentiamo la prossima canzone, che era Galeazzo, si chiama Mille Passi. Per sempre un passo grande, un passo così importante, due passi senza guardarti. Due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle, fino a toccarle. Tre passi per avvicinarle. Quando tornerai? No, che non tornerò. Quando tornerai? Lontano da qui sarò. Quando tornerai? Un giorno, forse mai. Quando tornerai? Ho fatto un passo ormai. Quando tornerai? Così lontani. Quando sai, tornerai? Un giorno, forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi forse è già tardi. Cinque passi senza cadere,

tornati qui su CRM Radio, sempre Deja Vu con Mary Catalano e anche oggi anche con me, con Peppe Carrozza. Sì, infatti ci siamo, siamo anche questa mattina insieme e praticamente fino a mezzogiorno mancano 20 minuti circa alla fine di questo appuntamento. Allora, ricordiamo ancora un altro appuntamento del fine settimana. Domani, venerdì 17 maggio, alle ore 17.30, presso i locali del caffè letterario La Galleria, in via 25 novembre, via Mandralisca, a Cefalù, verrà presentato il libro Mafia dalle gare di Corrado De Rosa e Laura Galesi. Interverranno il professor Mario Lombardo e il professor Mario Macaluso. Vogliamo ricordare che dopo l'appuntamento con Deja Vu ci sarà Carta e Penna, il programma con Filippo Glorioso, insieme a voi per un'ora di intrattenimento. Si parlerà anche questa volta di cose molto interessanti, quindi non andate via, non lasciateci le mani sempre con noi e continuiamo ad ascoltare la musica. E vedo che c'è qualcosa proprio di da prendere. Sì, abbiamo io due con Beautiful Day. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Eccoci ritornati e sì. Speriamo con questa canzone che la vostra giornata sia veramente bellissima. Ce l'auguriamo con tutto il cuore, questo è poco ma sicuro. E ad allietarla naturalmente ci siamo noi già dalle 10 di stamattina qua con voi sino a mezzogiorno con la musica di oggi e del passato insieme a Giuseppe Carrozza e Mary Catalano, che adesso vi parlano di una cosa davvero particolare che gli scienziati hanno iniziato a studiare, ovvero il sorriso sinistro di dei predatori che possono sostituire i denti caduti anche 50 volte nel corso di una vita, mentre l'uomo si deve accontentare di impianti e dentiere. Vedi che siamo sfortunati in questo senso. La soluzione per avere un sorriso sano potrebbe venire da un luogo in cui nessun dentista vorrebbe mai mettere le mani, ovvero la bocca degli alligatori. Ti immagini un coccodrillo, un dentista alle prese con il coccodrillo, una scena orribile, terrorizzante, ecco, terrorizzante, la parola sì. Giusta. Per mantenere inalterato il proprio ghigno e addentare le prede senza difficoltà, questi rettili hanno sviluppato un meccanismo di ricrescita dentale che permette a ciascun esemplare di cambiare 80 denti anche 50 volte nel corso della vita, una bella fortuna che a noi uomini è negata purtroppo. L'unico modo per sostituire un dente mancante per noi è quello di metterne uno finto, e questo spesso ci crea davvero dei problemi che condizionano il nostro stato d'animo, ecco. Ci sono tre cartucce per ogni dente, ne vogliamo parlare, Giuseppe? Sì, ci sono parti del nostro corpo a contatto con l'ambiente esterno che si rigenerano continuamente, come ad esempio che possono essere i capelli e le unghie, e le cellule delle epidermidi che vengono puntualmente poi sostituite. Allo stesso modo alcuni rettili, come appunto i coccodrilli e gli alligatori, possono farsi ricrescere i denti appena caduti. Un gruppo di ricercatori della National Taiwan University ha studiato i tessuti di embrioni e giovani esemplari dell'alligatore americano, scoprendo che ciascun dente di questo animale si sviluppa a blocchi di tre elementi: il dente vero e proprio, che cresce esternamente, la lamina dentale, che è il tessuto che dà origine poi al dente di riserva, e cellule staminali, che si trasformeranno in un nuovo tessuto quando il dente sostitutivo sarà sceso. Quando il dente più esterno cade, quello di scorta inizia a scendere e speciali segnali molecolari stimolano le cellule staminali a differenziarsi in cellule di nuovo tessuto dentale per creare un nuovo dente sostitutivo. Ora, i ricercatori stanno cercando di decifrare questi segnali molecolari per capire se un giorno, ma questa rimane ancora un'ipotesi molto remota, saremo capaci di rigenerare i denti caduti come i capelli. I nostri incisivi, dobbiamo dire che non sono poi così tanto diversi, salvo ovviamente le dimensioni, direi, da quelli degli alligatori. E soprattutto se alla base di alcune malattie che comportano la crescita dei denti in sovrannumero vi siano segnali molecolari sbagliati che sia possibile inibire. Beh, lasciamo il compito arduo agli scienziati che appunto ci stanno già lavorando, stanno già studiando la cosa. Bene, siamo pronti alla prossima canzone. C'è un altro bellissimo singolo dal passato dei Beatles che sentiamo subito. Here comes the sun. Thank you. needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason, you're my only truth. Again, oh yeah, you're the love that rescues me when the cold winds rage. And it's so amazing, 'cause that's just how you are. And I can't turn back now, 'cause you brought me to the Déjà vu su CRM Happy Radio. Depeche Mode, CRM Happy Radio. Questa mattina sono proprio loro a chiudere l'appuntamento con Déjà Vu, insieme a Mary Catalano e Peppe Carrozza. Sì, c'è anche lui e ci sarà anche la prossima settimana. Sì. Perché come sapete noi ci risentiamo martedì prossimo, sempre a partire dalle 10 fino a mezzogiorno, sempre sulle nostre frequenze, sempre su CRM Happy Radio. E poi non dimenticate che sul nostro sito internet, che sarebbe il www.crmhappyradio.it, ci sono anche le repliche in podcast, se volete ci potete seguire quando volete durante la giornata, se vi piace ricordarvi di questo appuntamento oppure di rivisitare, rivedere, risentire qualcosa che vi è piaciuta, e allora senza dubbio potete farlo tramite il nostro sito internet. Fra qualche istante l'appuntamento con Filippo Glorioso e Carta e Penna, quindi rimanete con noi. E che facciamo? Salutiamo. E riportiamo il tutto a martedì prossimo, come dicevamo prima, e vi auguriamo un felice weekend. Bye bye, alla prossima. Ciao ciao.